Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, state ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, o anche per una società non violenta. Questa è la puntata numero 460, numero tondo, nella quale parleremo di scena di caccia con precipizio, cure veterinarie alla portata di tutti, osservatori invadenti e scoiattoli elettrizzanti. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Dedichiamo questa puntata al cervo e ai cani precipitati da un burrone in Spagna durante una scena di caccia. Il video che circola in rete è una angosciante quanto banale scena di caccia. L'episodio viene filmato da molto lontano, quindi ci risparmia molti dettagli, ma quello che accade è purtroppo evidente. Un cervo viene circondato e assalito da una muta di cani da caccia, saranno circa una ventina. L'animale selvatico è stremato, terrorizzato, cerca di difendere la sua vita, però ha capito di non avere scampo e dopo una lunga fuga, al termine della quale ansima e ha la schiuma alla bocca, si arrende ai morsi dei cani da caccia, addestrati a sbranare, ma anche a contenersi, perché la preda per i cani da caccia è solo del cacciatore. Loro possono prendersi la soddisfazione di strappare qualche brandello di pelle e carne. Se non fossero addestrati, i cani per istinto sbranerebbero vivo, l'animale invece si autocontrollano. Però sono agitatissimi, abbaiano, mordono. Per il cervo sta finendo una storia di vita selvatica e di libertà. Il suo calvario è al culmine e finirà solo con lo sparo dei cacciatori, che però tarda ad arrivare. Per noi spettatori, assistere a una scena del genere è veramente raggelante. La scena è cruenta, ci si chiede che bisogno ci sia ancora di tutta questa sofferenza. Cani usati come macchine da guerra, snaturati, resi succubi dei comandi umani. E per il cervo, simbolo di una libertà selvatica sempre più minacciata e sempre più negata. Ma ecco che lo zoom arretra e ci si rende conto che la scena terribile appena descritta si sta svolgendo sul ciglio di un pericoloso burrone. Nella confusione, almeno 12 cani assieme allo stesso cervo cadono e si sfracellano sulle pietre sottostanti, perdendo la vita. Le immagini arrivano dalla Spagna e scatenano le proteste degli animalisti e non solo. Qualcuno dice: vergogna, fate questo agli animali che amate, e molti chiedono che il cacciatore venga punito. Eppure la caccia continua a essere proposta come atto di amore verso la natura, una natura irreale e astratta, mentre quello che realmente concretamente accade sono scene come questa, per non dire delle morti umane in scenari di caccia. Siamo già in Italia a 8 morti dall'apertura di questa stagione di caccia. A questi animali sacrificati in nome di uno sport va la nostra solidarietà e la promessa di fare tutto il possibile per riscattarli. Hashtag curiamoli tutti è una campagna a cura dell'associazione LAV che si terrà dall'8 al 16 dicembre 2018. LAV invita i cittadini e le cittadine a partecipare attivamente al primo banco farmaceutico organizzato in decine di città per aiutare i quattro zampe in difficoltà costretti a subire gli elevati costi dei farmaci veterinari, un problema che ricade sulle casse pubbliche per quanto riguarda la cura delle migliaia di animali nei canili, ma anche sulle famiglie che vivono con milioni di animali tra cani, gatti e altri pet o animali d'affezione. La campagna LAV hashtag curiamoli tutti è patrocinata dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, l'AFNOVI. Da sabato 8 a domenica 16 dicembre l'associazione sarà in tante città d'Italia con i propri tavoli nelle piazze, in centri commerciali, in prossimità o all'interno di farmacie e parafarmacie per raccogliere prodotti farmaceutici veterinari che saranno donati a persone bisognose, gattare, rifugi in difficoltà che accudiscono animali familiari individuati preventivamente attraverso le sedi locali della LAV diffuse capillarmente su tutto il territorio nazionale. Nei contenitori personalizzati per la raccolta sarà possibile donare farmaci oppure versare un contributo che verrà utilizzato dall'LAV per l'acquisto dei farmaci maggiormente necessari. Questo lo spot dell'iniziativa. Allora, il suo cane soffre di rinite. Le analisi hanno rilevato anche una rinite e una rinite. Inoltre ho diagnosticato una rinite. Le prescrivo il Baurin. Per gli animali bisognosi, guarire è almeno 4 volte più difficile, perché 4 volte più costoso. Per loro, LAV ha organizzato la prima raccolta di farmaci veterinari. Nei weekend dell'8 e del 15 dicembre saremo in oltre 300 piazze d'Italia e nelle farmacie aderenti. Scopri quali su lav.it. Another day now, fun at playgrounds, bend the rules now, know the rules now, play the rules now, it's institutional, resolutions, lack of direction, intersections. Pick up the gun, you know you're gonna use it. Know that gun, it's gonna get loaded. Say my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet. Look it front to back, through the shotgun shack. You decide to slow, to run fast, catching up with you, too slow to move, it's gonna get you, the playground rules, you can cry. Chop non sono solo carini, a volte possono essere anche birichini. Uno o più scoiattoli, infatti, rosicando i fili elettrici, hanno danneggiato la rete elettrica e hanno lasciato al buio 12.000 persone nello stato di New York. Secondo la New York State Electric and Gas, i roditori sono riusciti a mettere fuori uso la linea elettrica per diverse ore. Gli incidenti alle apparecchiature elettriche causati dagli scoiattoli sono molto frequenti negli Stati Uniti e persino Wall Street è finita nel mirino. Nel 1987 uno scoiattolo ha messo KO il Nasdaq per ben 85 minuti. Un altro episodio simile è avvenuto sempre al Nasdaq nel 1994. Le troupe di documentaristi, ma anche gli etologi ed altri studiosi naturalisti che agiscono sul campo, devono spesso fare scelte molto difficili, come quella di rimanere impassibili, filmando o osservando individui selvatici, feriti o morenti, perché la natura non è sempre gentile e anche quando l'uomo non interviene a turbare gli equilibri, il gioco è sempre lo stesso: vita, fame, malattie, morte. Lo stare al mondo, insomma, è un equilibrio molto instabile e i rischi sono tantissimi. Il maltempo, le predazioni, la scarsità di cibo, l'endogamia affliggono da sempre tutti i viventi, umani e non umani. L'uomo ha cercato di arginare l'incertezza creando una società che garantisce, o almeno che dovrebbe garantire, alcune sicurezze di base. Ma la sicurezza della nostra specie è stato poi, in fondo, un furto a danno di tutte le altre. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Siamo 8 miliardi di individui umani che affollano il pianeta a caccia di risorse per una vita più confortevole. Ma torniamo al dilemma del bravo documentarista. La prima regola è non intervenire mai, perché la natura ha i suoi meccanismi e si regola da sé. Ogni intervento umano per salvare la vita a un animale selvatico ci allontana dall'idea stessa di natura, creando disordini che vengono poi pagati a caro prezzo da altri individui. Su questo tema complicato vi proponiamo un fatto di cronaca e una riflessione a cura della nostra Francesca De Matteis. Quante volte, quando osserviamo un animale in difficoltà, vorremmo intervenire per aiutarlo? Probabilmente la maggior parte delle persone non starebbe solo a guardare, ma si attiverebbe. Ma non è così semplice se sei un documentarista naturalista che per deontologia non può interferire con i processi naturali durante le riprese. È quindi la natura che deve sempre fare il suo corso o si può immaginare qualcosa di diverso? Si tratta di un dilemma davvero aspro, un nodo che probabilmente non si potrà mai sciogliere del tutto. Tra i due opposti, ovvero lasciar fare alla natura o intervenire, vi sono talmente tanti fattori che rendono impossibile l'individuazione di una verità unica. C'è l'empatia dell'umano verso l'animale, c'è l'altruismo e il senso di solidarietà, ma vi sono anche le scienze naturali, il concetto di natura, di sopravvivenza e poi c'è la legge del più forte. I documentaristi naturalisti hanno la difficile missione di raccontare la realtà così com'è, cercando di interferire il meno possibile. Ma qualcosa di diverso è accaduto alla troupe della BBC durante la realizzazione dell'ultima puntata di Dynasties, la nuova serie di cortometraggi firmati dalla famosa emittente britannica. Dopo 11 mesi in Antartide per registrare una delle puntate della serie, verso la fine della sua permanenza la troupe si è trovata davanti a una scena davvero inaspettata quanto preoccupante. Circa 50 cuccioli di pinguino imperatore sono rimasti intrappolati in un burrone e non riuscivano a risalire il pendio. Solo uno, dopo infiniti e disperati tentativi, ce l'ha fatta. Gli adulti, infatti, non riuscivano ad aiutarli e per mettersi in salvo non hanno potuto far altro che abbandonarli, condannandoli così a morte certa. Ma alcuni membri della troupe, inteneriti forse dalla bellezza dei cuccioli di pinguino o da un nobile e naturale senso di empatia, hanno bypassato le rigide leggi del documentario e in un certo senso sfidato anche le leggi di natura, scavando una sorta di scala nella neve, consentendo così ai piccoli pinguini di risalire il dirupo e mettersi in salvo. Al momento della messa in onda del documentario, le immagini del salvataggio, quindi sono state inserite nel montaggio finale, hanno mandato completamente in estasi i telespettatori e la rete, ma naturalmente non sono mancate le critiche. Critiche a cui ha risposto lo stesso direttore esecutivo del programma, Michael Ganton, secondo il quale in effetti gli animali selvatici non si dovrebbero toccare e quindi non si sarebbe dovuto intervenire. Sia perché, parlando in generale del rapporto con i selvatici, toccandoli si possono trasmettere malattie, sia perché si potrebbero abituare al contatto umano, ma soprattutto, continua Ganton, non si deve interferire mai nelle situazioni che vedono interagire una preda e un predatore. Anche se alla fine è proprio lo stesso Ganton a sottolineare che perdere tutte quelle vite sarebbe costato molto alla popolazione della baia di Atka. Come considerare dunque questa sorta di ribellione della troupe? Un atto generoso dettato da commozione o qualcosa di più? Sempre la BBC aveva realizzato nel 2016 un documentario in cui a telecamere spianate un cucciolo di elefante moriva di sete vicino alla propria madre e nessuno era intervenuto. Probabilmente se i pinguini fossero stati minacciati da una foca non sarebbero intervenuti, ma quel dirupo era un elemento naturale e non un infausto scherzo del destino. Chi definisce dunque se un fatto è naturale o qualcos'altro? L'umano. E quindi, quando è giusto intervenire e quando no? La natura, così come siamo abituati a identificarla, forse non conosce il bene e non conosce il male, e non è così matrigna e benevola come viene descritta. È infatti proprio il concetto di natura che deve essere rivisto, come così di conseguenza deve essere rivisto il nostro rapporto con essa e con gli altri viventi, con cui appunto conviviamo. Probabilmente è solo così che sarà più semplice darsi delle risposte. La troupe questa volta ha scelto di salvare questi cuccioli, ha scelto la vita, ha scelto l'empatia. Questa forse ad oggi è la risposta migliore che si poteva ricevere. Only love could bring us to this bitter plain. Only one of us. Here in the deep below, that only darkness really knows. I'm hoping for a humble seed to grow. Niente scuola. Vacanza? Sciopero? Settimana corta? No, cinghiali. Lo ha deciso il sindaco di Mondaino, comune del Riminese, con una ordinanza firmata mercoledì 14 novembre 2018. La decisione di chiudere l'istituto comprensivo cittadino e le zone limitrofe dalle 8 alle 17 è stata presa per permettere la cattura o l'abbattimento di cinghiali selvatici a tutela della pubblica e privata incolumità. La presa di posizione del sindaco romagnolo, che non è piaciuta a tutti, è legata al fatto, si legge nell'ordinanza, che negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni relative alla presenza di cinghiali, sia in zone limitrofe al centro abitato, sia nelle aree di campagna, con avvistamenti anche nelle zone adiacenti all'istituto scolastico comprensivo. Il comune di Mondaino, si legge così sulla pagina FB del gruppo Basta Delfinari, preclude il diritto all'istruzione in favore di una battuta di caccia, togliendo altresì ai cittadini la possibilità di accedere alla zona. Mentre si registrano ormai quotidianamente incidenti di caccia, quasi inesistenti sono gli incidenti che coinvolgono gli ungulati, coinvolti loro malgrado in una caccia alle streghe che li vede ormai vittime designate. Quindi viene aggiunto in un altro passaggio, sempre nella pagina Facebook di Basta Delfinari, si chiudono le scuole per far posto a un'azione armata a ridosso del paese, completamente inutile e controproducente, autorizzata da un comune che cancella il diritto all'educazione per fare posto a una sorta di guerriglia suburbana. In rete la polemica infuria. Chiudere una scuola e fare di un'area pubblica un parco divertimenti privato per i signori cacciatori? Ma non vi vergognate, si legge così in un commento. Invece in un altro qualcuno scrive: chiudere le scuole e caricare i fucili è una vergogna infinita. E qualcuno fa notare che il comune può chiudere solo in caso di calamità naturale ed esorta il sindaco ad andarsi a ripassare la legge. Torture atroci, maltrattamenti fino all'uccisione cruenta. È un vero e proprio allevamento lager quello scoperto dai carabinieri forestali all'interno di una nota azienda del territorio che alleva e commercializza suini a Senigallia, in provincia di Ancona, dove si sarebbero verificati gravi reati di maltrattamento e uccisione a danno di alcuni animali allevati. In particolare, alcuni dipendenti avrebbero utilizzato barre di ferro per percuotere i suini, taser elettrici sulle scrofe gravide in evidenti difficoltà fisiche, oltre ad abbattere esemplari non deambulanti o malati con metodi oltremodo cruenti. Particolare attenzione viene rivolta anche alle condizioni igieniche dei luoghi di detenzione degli animali e sulle procedure di gestione dell'azienda. Mentre si stanno ancora accertando gli elementi di prova a carico dell'amministrazione dell'azienda e di alcuni dipendenti, si rende noto che le pene previste per i delitti di uccisione e maltrattamento degli animali variano da multe fino a 30.000 euro alla reclusione fino a 2 anni. Duole doversi occupare di maltrattamenti come se l'allevamento stesso non fosse già di per sé un luogo di angoscia e di tortura. Secondo noi nessun trattamento può essere buono in un luogo in cui gli animali vengono fatti nascere già condannati a morire. Al momento non ci resta che stigmatizzare le violazioni a queste leggi che riteniamo un po' ipocrite, lo facciamo con l'intenzione di mettere dei piccoli granelli di sabbia negli ingranaggi di un mondo sbagliato affinché si rifletta sull'esistente e si tenda a costruire un mondo nuovo, diverso, nel quale nessun vivente dovrà subire la tortura dell'allevamento, dello sfruttamento e della schiavitù. Now that you're settled, comes a knock at the door. Wind's rattling something that never rattled before. What have we if not promises? The excitement of the road too gets old. Something has changed in me, changed again. Something has changed in me, and here I go. hear the laughter of life. Something has changed. How many times we've pledged forever. Gone overnight, like the weather. Magic days of childhood I took for granted. Now I see we're held together by a thread. Something has changed in me. Anche se manca ancora più di un mese a Natale, all'IKEA di Catania sono già arrivati gli addobbi e il clima è decisamente festivo. E siccome a Natale sono tutti più buoni, ecco spuntare tra mobili esposti alcuni cani randagi, a cui il negozio ha aperto le proprie porte per ripararli dal forte maltempo che ha causato tanti danni intorno al 10 di novembre scorso. La scena è stata ripresa da una cliente che, intenerita nel vedere i cuccioli dormire beati al calduccio sui tappeti, ha deciso di inviare il video alla madre. Nel filmato si vede un cane che dorme su un soffice cuscino, un altro sotto un albero di Natale. La donna lo ha poi condiviso su Facebook senza immaginare che sarebbe diventato virale. Una bella iniziativa per dare riparo ai randagi mentre fuori piove. Tutto questo succede nel centro commerciale di IKEA a Catania, tra lo stupore di molti passanti. Vogliamo applaudirla questa civiltà? Questo è il testo circolato su Facebook assieme alle straordinarie foto dei cani morbidamente adagiati nei vari salottini targati IKEA. La redazione di Restiamo Animali apprezza la scelta fatta da IKEA di Catania. Per noi accogliere, aiutare e proteggere è un dovere civile, senza distinzione di specie, di pelle, di zampe, di code. Siamo in chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 461 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.